usemme questi qua del Rio, ma non sti preoccupave che le 8 di che magno pi. E mi scarta faccio le 4. Gli ha detto, somiglia mia alla gaitina della cola che il maestro mi caccia fa in scuola. Scominciamo allora. Ben, chi che non ha il nono e la nona, vero? E anche il nono e la nona, i ha le sua vita e le sue cose. E una sera, il nono e la nona ieri a casa loro i due soli. Ente quella, la nonna dopo del bagno le ha detto, nono andiamo a letto. E gli è andati a letto. La nonna si è buttata su. Ente quella anche il nono, il va. Dopo che buttai tutto il citto, tutto quieto, la nonna col pie su pal nono, pin pianì. La che dice, nono, scumisito. Ma il nono l'era de poche parole, o meno un grando, e che dice, demo nona, Beh, minutin di silenzio, la nonna un pochettino pin su col pie, su. La che russa su e su, e la che dice, ava la nono, solo ancora scumisciati. E il nono gli dice, andiamo vecchia, muovete fuori. Beh, quando la che impodea piccola gamba, l'è andata su con le mani. Banda le sirole del nono, e la che dice, nono, va là, nono, solo ancora scumisciati. E lui, de colpo, andiamo vecchia, muovete, scumiscia, perché la finisce. E l'ora ella con tutta la calma del mondo, ben ben, l'ora scomisciarò ancora mi, in nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, amen. E mi ho visto un per de facce malintenzionale lì, ah! Eh?